24 mattino. Alle 8:17 minuti, eccoci qua. 349-238-6666 è per parlare il momento dell'economia. Soldi e dintorni. Con Deborah Rosciani, eccoci qua. Alessandro, buongiorno a tutti, ciao. Eccoci, allora. Oggi parliamo di un tema molto interessante, perché tutti noi abbiamo bisogno, potremmo aver bisogno, esatto, che ne so, di una babysitter, dell'idraulico quando... Un giardiniere, di un animatore, giardiniere, magari insomma, anche di un cuoco. Vivendo a Milano in condominio, il giardiniere magari, insomma, ma giustamente ci sono però in Italia, tante altre... Cioè, di un cuoco. Quello magari, quello forse più io. Potrebbero fare tante battute, anch'io, e andiamo avanti. Allora, sono delle professionalità quelle che abbiamo citato, che come vi dicevo ci potrebbero servire, e potremmo, come dire, reperirle senza necessariamente il passaparola fra amici, ma magari usando, pensate un po', da ora in poi, una carta prepagata a 15 euro l'ora. Questa è un'iniziativa di Manpower, è una grande agenzia per il lavoro americana, è presente nel nostro paese dal 1994, e si è inventata sostanzialmente appunto questa carta prepagata che ci dà l'opportunità di accedere a servizi a domicilio chiamando un call center, e in sostanza avremo a disposizione 200 professionalità in ambiti molto diversi. Allora io ringrazio e saluto per essere con noi Stefano Scabbio, che è presidente e amministratore delegato di Manpower Italia. Dottor Scabbio, buongiorno. Buongiorno a tutti, buongiorno ai radioascoltatori. E tanto per dimostrare che il tempo è denaro, che tra l'altro è proprio un po' anche lo spirito e la filosofia di questa vostra nuova iniziativa, volevo raccontare a tutti che lei è appena uscito da una piscina, quindi in sostanza il mattino all'ora in bocca si comincia a lavorare molto presto il mattino, Scabbio. Assolutamente, il mattino un po' di sport fa bene e dà energia per tutta la giornata. E magari è proprio nel bel mezzo di una pratica sportiva che lei si è inventato questa prepagata, che non a caso si chiama Ora. Ci può spiegare esattamente come funziona? Poi ovviamente racconteremo anche un po' tutto quell'altro spirito che accompagna questa iniziativa, che è un po' quello di far emergere anche il lavoro dal nero. Scabbio. Sì, è un'idea che è nata dall'osservare che molto spesso, come avete appena accennato, tutti noi abbiamo poco tempo a disposizione e delle emergenze per cui dobbiamo recuperare nell'attività quotidiana del personale da dedicare ai figli, a un'emergenza come l'idraulico piuttosto che l'elettricista e attività di questo tipo, e quindi farlo con la possibilità di recuperare rapidamente nell'arco di 24 ore nel nostro caso personale qualificato che permette di essere in regola e quindi di tutelare il consumatore, credo che sia un grande vantaggio. Personale qualificato che già passa dalle vostre agenzie, che quindi voi già conoscete, ecco. Assolutamente, personale che noi abbiamo anche raccolto e formato in questo periodo. Oggi abbiamo un bacino di 200 persone su Milano, perché l'iniziativa è partita ieri su Milano, sono state formate con un corso di formazione che li perfeziona dal punto di vista delle competenze professionali, quindi del mestiere, ma anche sugli aspetti relazionali, come ti devi comportare con il cliente, quali sono le frasi di cortesia, tutti questi aspetti di relazione che in un'attività di consumer sono molto importanti. Andiamo agli aspetti però fondamentalmente economici di questo progetto, che ormai è qualcosa di più. L'iniziativa per adesso è pilota da Milano e poi successivamente sarà attivata nel resto d'Italia, diceva. Assolutamente, pilota su Milano, è partita ieri, la carta viene venduta nelle nostre filiali di Milano, è venduta a 150 euro perché incorpora ovviamente 10 euro, 15 euro all'ora, e è facilmente fruibile, si telefona a un numero verde, il numero verde. Chiediamo, sì. Sì, se ce l'ha, se no ce l'ho io. 800 52 52 05. Benissimo, quindi attraverso il numero verde la carta si può prenotare, poi fisicamente bisogna naturalmente ritirarla presso le vostre filiali. Perfetto. Certo. Bisogna passare, dopodiché si chiede quando si necessita del... Allora, mi serve un elettricista, che cosa faccio? Un servizio, chiama il call center 24 ore prima, dà i suoi dati, il suo indirizzo, e la persona viene a trovarla a casa nelle 24 ore successive, prendendo l'appuntamento con lei secondo le sue disponibilità. Certo, senta, mi stavo chiedendo prima, parlandone con Alessandro Milan prima dell'apertura appunto della trasmissione, allora lei ci diceva che la ricarica minima è di 150 euro, equivalenti a 10 ore di lavoro indifferenziate per tutte le figure professionali. Sì. Però magari una colf può mediamente costare, una collaboratrice familiare, una babysitter, 12 euro l'ora, voi ne chiedete 15, voi ne praticamente pagate 15 netti, però ecco, magari un elettricista piuttosto che un idraulico costano un po' di più. Come mai avete parificato in questa maniera le tariffe? Ma in questo momento, per il lancio, abbiamo voluto non differenziare assolutamente le tariffe, quindi è diciamo un test, no? Facendo questo pilot sulla città di Milano abbiamo voluto mantenere praticamente flat la nostra tariffa, quindi vogliamo vedere come reagisce il mercato consumer a questa proposta e dopodiché si rifletterà a seconda anche di quelle che sono le esigenze che emergono durante questo pilota. Come dicevamo prima, brevissimo allargheremo entro fine giugno a tutta la cintura delle città di Milano, della città di Milano, quindi coinvolgeremo i paesi dell'Interland, a Monza, Saronno, Rho, Corsico, Bucinasco, San Donato, Segrate, Cernusco, insomma tutto quello che riguarda la cintura milanese, perché sono probabilmente anche questi paesi, queste città necessitano maggiormente, perché la gente fa il pendolare e entra in città per lavorare, quindi anche questa è un'altra riflessione che abbiamo svolto nel pianificare questo progetto. Avete preventivato di vendere 2000 carte in un mese? Cosa vi fa credere che l'iniziativa riuscirà a centrare questo target, Scabbio? Ma c'è molto entusiasmo, molto interesse, e dai focus group che abbiamo fatto sia interni alla nostra organizzazione Manpower, abbiamo più di 2000 dipendenti, che esterni chiaramente sul mercato, c'è stata una risposta molto positiva a quest'idea, quindi siamo molto confidenti che questo possa permetterci di raggiungere questo risultato. Ecco, mi ha stupito un'ultima cosa, poi ci dobbiamo salutare, Scabbio, e andare tutti quanti a continuare a lavorare. Ma il fatto che non abbiate voluto, per far conoscere questa iniziativa, attivarvi con una campagna pubblicitaria, diciamo, tradizionale, piuttosto avete notevolmente targettizzato, come dire, le persone a cui rivolgervi. So che per esempio vi siete fatti aiutare dall'associazione dei manager del terziario, avete selezionato, ho letto appunto da una sua intervista, 16.000 donne manager solo su Milano a cui inviare per posta il dépliant che illustra il funzionamento della carta. Sì, in una fase iniziale preferiamo fare un mailing mirato a queste persone, tra l'altro ci sarà una selezione di 100 clienti ai quali invieremo in maniera del tutto gratuita una carta con 5 ore, stiamo facendolo in questi giorni, per far provare il servizio e quindi per vedere come funziona completamente il processo che abbiamo strutturato. Dopodiché, nel momento in cui decideremo di allargare questo servizio alle altre città d'Italia, penseremo anche a una campagna pubblicitaria più a tamburo battente. Grazie. In questo momento è un passaparola. Certo, grazie a Stefano Scabbi. Allora, naturalmente ci faccia sapere quando avrete raggiunto l'obiettivo delle 2000 carte su Milano. Io intanto ricordo ancora il numero verde per chi fosse su questo territorio interessato a questa iniziativa, è l'800 5252 05. Grazie a Stefano Scabbi, presidente amministratore delegato di Manpower Italia. Alessandro. Eccoci qua allora, tra poco con Salva Danaio, Deborah alle 12. Oggi parliamo di obbligazioni societarie perché prevediamo che nei prossimi mesi ce ne saranno tante sul mercato, cerchiamo di capire in quali settori prolifereranno e come dare un aiuto al risparmiatore a scegliere. 24 mattino. Eccoci qui alle 8:32 minuti, ben ritrovati da Alessandro Milan. Diamo uno sguardo alle notizie in primo piano. È l'ora di un nuovo inizio nei nostri rapporti, questo è il messaggio del presidente americano Obama al mondo islamico nel discorso al Cairo di ieri. Obama ha anche rilanciato l'idea di due stati per due popoli per risolvere il conflitto tra israeliani e palestinesi. È l'ultima giornata di campagna elettorale, domani si vota ed è ancora scontro politico sulla vicenda dei voli di Stato. La Procura di Roma è intenzionata ad accertare l'identità degli ospiti del Premier, che risulta indagato come atto dovuto. Berlusconi ribadisce verrà tutto archiviato, Franceschini del PD più che un reato è un problema di moralità della politica. Intanto oggi il quotidiano spagnolo El País pubblica alcune delle foto che ritraggono gli ospiti di Berlusconi in Sardegna che sono state sequestrate in Italia. I rottami recuperati dalla Marina brasiliana nell'Oceano Atlantico non appartengono all'Airbus Air France, scomparso qualche giorno fa, lo ha dichiarato un portavoce militare. Finora non è stato recuperato alcun pezzo dell'aereo, ha detto. A bordo del Rio de Janeiro-Parigi, lo ricordiamo, c'erano 228 persone. Infine, per il calcio, è il momento del mercato. Mentre al Milan continua il tormentone Kakà, lunedì il probabilissimo annuncio del passaggio al Real Madrid, ieri il patron dell'Inter, Moratti, è volato in serata a Barcellona per trattare la cessione di Ibrahimovic. In Italia, invece, Luciano Spalletti resta tecnico della Roma e dunque Ciro Ferrara dovrebbe rimanere tecnico alla Juventus. E allora alle 8:33 minuti, 349-238-6666, questo è il numero per i vostri messaggi. Oggi, come anticipato, parliamo di un libro che è uscito un paio di giorni fa, un titolo emblematico. Probabilmente faremo arrabbiare un po' dei nostri ascoltatori, molti dei quali, lo so, mi seguono, mi scrivono. Sono 9.116 in Italia, tra poco vi diremo di chi parliamo. Se vi arrabbierete, la colpa è di Stefano Livadiotti, io ve lo dico. Stefano, buongiorno. Buongiorno a voi. Ecco, come presentazione va bene, così ti prendi tutte le colpe nel caso di qualcuno che si arrabbia. Allora, Stefano Livadiotti è una firma molto puntuta dell'Espresso, già autore di un libro che si intitolava L'altra casta, che fece arrabbiare i sindacati, perché era un libro appunto che andava a vedere i bilanci dei sindacati, i privilegi, eccetera. Ora esce con un nuovo libro da un paio di giorni in libreria, dal titolo Magistrati, l'ultracasta, edito da Bompiani, anche questo, sono 250 pagine su per giù. E allora io leggo, insomma, l'ultracasta, tu scrivi, giudice pubblici ministeri, negli anni è la madre di tutte le caste, uno Stato nello Stato, governato da fazioni politiche, un formidabile apparato di potere, strapagati, impuniti, insomma, ma è davvero così? Perché l'ultracasta? Beh, l'hai detto tu adesso. Pagati e impuniti, secondo dei dati, ricordo che qualche mese fa il ministro Brunetta provocatoriamente aveva proposto l'installazione di tornelli per verificare quanto lavorano i magistrati, io mi sono concesso nel libro una battuta, più che i tornelli ci vorrebbe il braccialetto elettronico. Secondo i dati del CSM, vostro onore lavora 1560 ore l'anno, che diviso per 365 fa 4,2 ore al giorno. Quando però arriva al vertice della sua carriera guadagna 5 volte quanto guadagna un italiano medio. Gli esami che sostiene per le diverse promozioni che durante la carriera, da questi esami risulta che il 99,6% viene promosso. C'è all'inizio del libro una storia un po' datata ma assolutamente attuale, che riassume un po' tutti questi privilegi, questi i vari meccanismi che in nome della sacrosanta indipendenza della magistratura hanno prodotto poi delle degenerazioni. La storia di un giovane magistrato che viene sorpreso nella toilette di un cinema della periferia romana con un minorenne al quale ha promesso del denaro in cambio del rapporto sessuale. Il magistrato viene inevitabilmente arrestato e sospeso dalle funzioni, affronta i 3 gradi di giudizio piuttosto benevoli nei suoi confronti, poi arriva addirittura un'amnistia per cui chiude i conti con la giustizia e a quel punto deve affrontare lo scoglio, si fa per dire, della sezione disciplinare del CSM, che generalmente è molto indulgente, come si sa. Davanti a questa sezione disciplinare, di cui fanno parte tra l'altro due futuri presidenti della Corte Costituzionale, tutto si risolve con una sentenza che lo dichiara innocente in quanto 3 anni prima del fatto ha sbattuto la testa. È diventato dunque scemo, ma solo per il giorno in cui ha commesso il fatto, perché dopo è ritornato normale, quindi viene reintegrato e in base a una serie di meccanismi perversi, in parte non più in vigore per fortuna, viene reintegrato con gli arretrati, viene promosso e questo comporta la promozione, per una questione di parificazione, di alcune centinaia di suoi colleghi, con con un costo per lo Stato di 70 miliardi di lire, calcolati nel 1990. Tanto è vero che tu questo episodio lo metti quasi proprio all'inizio del libro, sì, anche sì, prima dell'introduzione, anche quasi prima dell'introduzione, proprio a dire, ecco, vi, per entrare con i piedi nel piatto vi spiego di che cosa parliamo. E infatti uno dei capitoli più interessanti è proprio quella dell'impunità, tutto sotto linea. Fai anche una cifra, credo, ecco, c'è da dire, il pregio secondo me di questo libro che ho letto, questo pamphlet, è che articola cifre, snocciola insomma dati, scrive sentenze, pubblica sentenze, quindi tutto abbastanza documentato. Una cifra sulle quelli che sono stati le una cifra che tra l'altro è uno 0,065%, vorrei che tu ci spiegassi. Dunque, i dati dicono che tra il 1999 e il 2006 1.004 magistrati sono finiti davanti alla sezione disciplinare del CSM, 812, pari all'80,9%, se la sono cavata con l'assoluzione e con il proscioglimento, 126 hanno avuto un'ammonizione, insomma, poco più che un buffetto sulla guancia, diciamo, 38 la censura, solo 22 hanno avuto una perdita di anzianità che si traduce in un rallentamento della carriera e solamente 6 hanno perso il posto. Questi 6 sui 9.116 fa appunto 0,065%. 0,065%. Un altro capitolo interessante è quello, insomma, della giustizia lumaca. Sappiamo che siamo a livelli veramente a livelli infimi come lunghezza dei processi, sia nel campo civile sia nel campo penale. Tu però perché accusi e metti un po' il dito, punti anche il dito sui magistrati, quando invece spesso anche gli stessi magistrati, è vero, siamo lentissimi, ma c'è una burocrazia, le notifiche, insomma tante cose non dipendono la lentezza dei procedimenti da noi. Invece tu ribalti un po' la situazione. Ma questo, magistrati, è chiaramente uno scaricabarile. Ci sono 91 magistrati sono distaccati presso il Ministero della Giustizia, quindi un magistrato ogni 100 lavora al Ministero della Giustizia, occupano praticamente tutti quanti i posti chiave della macchina della giustizia, quindi se questa poi non funziona, se le leggi sono fatte male, ecco, le leggi, io ricordo quando Mastella, allora ministro, presentò il suo programma, ci fu una scenetta curiosa che poi è stata raccontata, è finita anche sulle agenzie come l'ANSA, venne distribuita la relazione di Mastella, mentre i senatori della Commissione Giustizia iniziavano a leggerla, fu prontamente ritirata dai commessi, poi si scoprì perché in fondo al testo c'era la firma di un sottosegretario magistrato distaccato presso il ministero, che era evidentemente quello che aveva scritto il testo al posto del ministro. Questo per dire che in realtà loro governano tutto, poi si lamentano tutti i giorni del fatto che il budget è stato ridotto, per cui non ci sono neanche i soldi per la benzina dell'auto blu. Addirittura ricordo qualche mese fa i magistrati di Venezia dissero che dovevano portarsi la carta igienica da casa. Adesso le cifre della CEPEI, che è la Commissione per l'Efficienza della Giustizia Europea, dicono delle cose diverse. Non è vero che in Italia si spende di meno per la giustizia. L'Italia, cito qualche numero, ha 1.292 tribunali contro i 509 dell'Inghilterra. In Italia abbiamo 13,7 giudici professionali ogni 100.000 abitanti, in Francia ne bastano 11,9, in Spagna 10,1 e in Inghilterra 7. Anche dal punto di vista proprio della spesa, il nostro budget per tribunali, pubblici ministeri e patrocini per i non abbienti era pari a 4 miliardi e 88 milioni. Gli olandesi se la cavano con 1 miliardo e 613 milioni. Quindi dici i soldi sostanzialmente ci sono. Ecco, allora la domanda che tu mi farai, immagino, è dove vanno a finire. Allora c'è uno studio della Corte dei Conti sulle retribuzioni pubbliche. Allora, le retribuzioni pubbliche sono cresciute tra il 2001 e il 2005 del 12,8% in generale quelle pubbliche. Se andiamo a vedere quelle dei magistrati nello stesso periodo sono cresciute del 26,2%, con dei tassi di crescita annuali del 6% nel 2002, del 4,6% nel 2003, del 5,5% nel 2004, addirittura del 7,6% nel 2005. Insomma, ma non c'è niente da salvare, voglio dire, è un'analisi impietosa quella alla quale ovviamente i magistrati, lo so, anche quelli che mi ascoltano e mi scriveranno, diranno ma io sono qui che lavoro dal mattino alla sera, mi arrabatto, magari sono poche mele marce come tutti i sistemi, come in tutte le caste, in fondo siamo un paese di caste, insomma, c'è qualcuno che va male. Credo che il problema vero sia un sistema, dunque innanzitutto i magistrati hanno un sistema di carriera che non ha uguali al mondo, dove la meritocrazia è stata bandita definitivamente. nel senso che un magistrato sa che se non finisce in galera, non commette degli errori veramente di una gravità inaudita, dopo 28 anni da quando ha indossato la toga arriva al massimo della carriera, cioè alle funzioni direttive superiori della Corte di Cassazione, indipendentemente dal lavoro che svolge. Anche se è rimasto tutta la vita in un piccolo tribunale di provincia, dopo 28 anni diventa appunto magistrato di Cassazione, dobbiamo chiamarlo Sua Eccellenza, e ha uno stipendio da magistrato di Cassazione. Gli esami, come abbiamo detto, vengono superati dal 99,6% dei magistrati, per cui alla fine questo produce è un problema di costi, perché loro dicono di guadagnare a parità di funzioni meno dei colleghi europei, e questo non è affatto vero, guadagnano di più. Ma indipendentemente da questo, se tutti i magistrati dopo 28 anni arrivano al vertice, è chiaro che il costo del sistema è enormemente superiore a quello degli altri paesi. Questo è un sistema appunto dove la meritocrazia è assolutamente bandita e che produce queste degenerazioni, per cui poi non è vero che lavorano, appunto il dato parla di 4,2 ore al giorno, che francamente mi pare abbastanza basso. No, io ho detto all'inizio, come è giusto che sia, insomma tu sei una penna dell'Espresso, insomma non sei tacciabile, come dire, perché sappiamo che c'è una parte politica che contro i magistrati si sta spesso, insomma si pronuncia, insomma non sei tacciabile di questo in questa inchiesta che hai fatto. Insomma, noi siamo quasi in chiusura, io proponi una cura, perché voglio dire, il sistema per come lo analizzi nel libro è un sistema, è un'analisi, ripeto, impietosa, insomma. Che fare dunque, se proponi qualcosa nel libro? Dato che parlavi dell'aspetto politico prima, io una cosa che sottolineavo, appunto, questo non è, come qualcuno dirà in maniera semplicistica o volutamente, non è un libro contro la magistratura, semmai è un libro appunto che denuncia questa degenerazione e che vuole essere un po' un campanello d'allarme affinché la magistratura si dia una mossa e si riformi dal suo interno, proprio per evitare che a riformarla poi ci pensi la politica, magari con uno spirito diverso da quello che sarebbe necessario. Non ho una ricetta però dici non è contro la magistratura, però non ci sono molte pagine che ne sottolineano, insomma, gli aspetti positivi, ecco, di come funziona. Ma proprio per l'importanza del ruolo che riveste la magistratura è necessario attuare alcune riforme e eliminare alcune degenerazioni. Io credo che un sistema giustizia che non funziona penalizza i più deboli, su questo non c'è dubbio. E allora io, magistrati, avete preso nota, Stefano Livadiotti, pensi di averli fatti arrabbiare ulteriormente, non so. Stefano Livadiotti, magistrati, l'ultracasta, tra l'altro poi l'altra casta, questa era sui sindacati, la prossima casta verrebbe anche da dire, c'è anche questo filone ormai, giustamente, da la casta, quella con la C maiuscola, non so su cosa, magari anche su quella dei giornalisti, si potrebbe scrivere anche un libro su quello, Livadiotti. Ma questa è una battuta che fanno in molti quando sono andato in giro a presentare l'altro libro. Certo, anche con questo. La faccio io volutamente, insomma, tra colleghi è giusto. Ma ecco, ti faccio un esempio però, io sono giornalista professionista da 25 anni e sono redattore ordinario dell'Espresso. Se avessi fatto la carriera di magistrato, tra 3 anni sarei magistrato di Cassazione e tu dovresti chiamarmi Sua Eccellenza. Sua Eccellenza Stefano Livadiotti, grazie molte per essere intervenuto con noi. Allora, ricordo, poi se non avete preso nota, ve l'ho detto 3 volte, il libro, scrivete a noi 24 mattino e radio24.it e ve lo diciamo. Magistrati l'ultracasta, eccoci qua, siamo aperti ovviamente a tutte le critiche, a quelli che mi scriveranno. Io girerò tutto a Stefano Livadiotti, così risponderà lui che l'inchiesta l'ha fatta. Alle 8:48 minuti, allora ora dopo ora, insomma, si aggiungono, si può dire, misteri o comunque mancanza di certezze sull'Airbus dell'Air France che è scomparso 5 giorni fa da Rio de Janeiro, era in volo verso Parigi, verso la Francia. L'ultima nella notte, insomma, i portavoce militari brasiliani hanno detto che i rottami trovati non sono identificabili dell'Airbus A330, al momento non c'è nulla in mano che possa dire appartenga a questo aereo. Io, insomma, i misteri, e come si sa, quando poi ci sono i misteri fioriscono anche le leggende, allora è bene invece chiarire qualcosa con chi se ne intende. Voglio salutare un ospite che è il comandante Carlo Aldo Pezzopane. Comandante, buongiorno. Buongiorno. Tra l'altro è consulente di sicurezza operativa, se ne intende molto, è membro anche di Astra, che è un'associazione per la sicurezza nei trasporti. Insomma, comandante Pezzopane, la domanda che tutti noi che su un aereo ci andiamo ma non siamo alla cloche di comando e quindi non abbiamo, è possibile che un aereo scompaia o sia scomparso così e per ora, dopo 5 giorni, non se ne sa più nulla? È possibile, perché in effetti è avvenuto, però c'è la confusione dei primi giorni dopo un incidente di questo tipo, dell'accostamento all'evento che viene attuato generalmente dai media, che non è che si trovano di fronte tutti i giorni fortunatamente a un evento del genere, quindi non c'è una esperienza specifica su come condurre la cosa e su come educare il pubblico, se vogliamo, a questo. In effetti noi dobbiamo ricostruire un puzzle e non abbiamo sostanzialmente alcun pezzo del puzzle, non sappiamo niente di niente, alcuni piccoli particolari. Abbiamo la registrazione dei dati trasmessi in data link, ma non hanno la stessa affidabilità nella ricostruzione che possono avere i dati del registratore di volo e del registratore delle comunicazioni in cabina. Avevamo, perché adesso questa notizia che non corrispondono a quelli di un aeromobile cancella la prima ipotesi che poteva essere fatta non più tardi di ieri, certo. Frantumato in volo, dico frantumato, non dico esploso, non dico... No, certo, altro. Però che ci sia stata una deflagrazione che abbia fatto, insomma, frantumare proprio il velivolo, ecco, perché sì, certo, perché quando comunque si dice esplosione, sennò subito si pensa a attentati, che è un'ipotesi, però che non si può escludere neanche questa, no, comandante, nel senso che sì, qualcosa... Non si può, esatto, niente può essere escluso, e in questo niente può essere escluso, a seguito di una pressione mediatica, le parti in gioco... tendono o possono tendere a privilegiare una tesi o l'altra, per quale ragione? Perché se si trattasse di un'esplosione dovuta a ordigno, andremo a ricercare eventuali responsabilità nello Stato, quindi nell'aeroporto, nell'organizzazione aeroportuale, certo, è partito l'aeromobile. A Rio de Janeiro, chiaro. Brasile, Rio de Janeiro. Invece, in caso di avaria strutturale, chiamiamola così, oppure incontro di situazioni meteorologiche talmente violente attribuibile a un comportamento dell'equipaggio, rimarremo sempre ad un discorso collegato alla Francia che ha immatricolato l'aeromobile, l'ha costruito, l'ha mantenuto e alla compagnia. E anche alla preparazione del volo, anche alla preparazione dei piloti, perché comandante, l'ultima anche che è uscita è su Le Monde, per esempio, era dire di fronte a questa turbolenza molto forte probabilmente la velocità tenuta era troppo bassa, dunque facendo prevedere un possibile errore umano anche. Le sciocchezze della domenica, perché gli aeromobili di lungo raggio sono costruiti, progettati, ma anche il 747 di buona, non diciamo di buona memoria, no, perché è ancora estremamente attuale, ma esiste da oltre 40 anni. Io ci ho volato su una dozzina d'anni, fatto anche quelle rotte. Un aeromobile che ha la stessa velocità in condizioni di turbolenza che ha in condizioni di crociera normale. Quindi il discorso della velocità non è proprio. C'è un aspetto, quello che è a quote molto elevate, a pesi molto elevati, l'aeromobile vola molto prossimo a velocità di stallo, di bassa velocità o velocità di stallo, che sarebbe un superamento del Mach critico, di alta velocità. Vediamo che il lasco può essere intorno alla ventina di nodi, che sembra poco, ma in sostanza poi si è rivelato nell'esperienza di 60 anni d'aviazione, diciamo, da quando esistono i jet, si è rivelato ampio rispetto alle esperienze di turbolenza che abbiamo verificato. Ormai l'atmosfera è abbastanza ben conosciuta ed è tanto conosciuta da poter dire tranquillamente, su questo non c'è dubbio, non è neanche ipotizzabile che il pilota, che l'equipaggio, il comandante abbiano deciso di attraversare una zona, sì, commerciale e tropicale di quella intensità, anche disponendo di radar modernissimi, affidabili come quelli di cui dispongono oggi gli aeromobili. Non è proprio libile, anche qualcuno fa discorsi, ma il carburante non era tale da poter effettuare una deviazione e quindi non sarebbero magari arrivati a destinazione. Non è un problema, dato che attraversare una condizione meteorologica così gravosa è definire senz'altro atteggiamento suicida, un comandante con quell'esperienza avrebbe senz'altro deciso di fare una deviazione ed eventualmente fare un dirottamento o atterrare, non so, a Dakar, resta comandante. Abbiamo però 20 secondi da capire l'altro mistero, la mancanza del Mayday, cioè del non hanno avuto tempo. Non è un mistero. Il Mayday non è un aiuto, soccorretemi, il Mayday è un avviso agli enti di controllo che l'aeromobile ha dei problemi, è in emergenza e l'equipaggio richiede priorità a qualsiasi azione che intende fare. Quindi il Mayday è fondamentale in una zona estremamente trafficata come può essere il cielo europeo, ma in Atlantico non è necessario. Meridionale, Atlantico centrale, il Mayday è una cosa che arriva dopo, arriva molto dopo. No, questo è importante, c'è anche chiarito, comandante, questa cosa, perché sui giornali ovviamente da giorni si dice come mai non hanno lanciato il Mayday. Io, comandante, la ringrazio per essere stato con noi. Ovviamente insomma i misteri rimangono tutti, perché ripeto non c'è nulla di questo aereo per il momento. Il comandante Carlo Aldo Pezzopane, grazie per essere stato con noi. Ci dobbiamo fermare, tra poco c'è Giuliano Ferrara, parla insomma nell'ultimo giorno, poi da domani si vota amministrativo ed europee. Noi ci ritroviamo lunedì con 24 mattino. Grazie a Laura Marchesi, Alessandro Marcotulli in redazione e Carmelo Lauricella in regia. A lunedì.